Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Dalla sala F di Via Asiago in Roma, Radio 2 3131. 7 gennaio 1969. Con una telefonata al distretto telefonico di Roma, prende il via su Radio 1 Chiamate Roma 3131. 3131 è stato il primo programma in cui si è sentita la voce della gente attraverso una semplice telefonata a quello che è diventato il numero più caldo dei centralini RAI. Beh, allora fu l'esplosione del privato. La gente per la prima volta poteva parlare al numero telefonico e dire e raccontare della propria vicenda personale. E fu quindi un'esplosione di storie individuali che si assommavano, si sovrapponevano giorno dietro giorno. Beh, devo dire che mi coglie impreparato questo audio che mi sta facendo sentire Fabrizio Intonti, non me l'aspettavo. Voi forse avrete difficoltà a comprenderlo immediatamente, ma che è stato l'inizio di tutto per me. Ho iniziato a fare radio nel 1983 facendo 3131, più o meno di questo periodo, perché si cominciava a ottobre. Per la prima volta io cominciai a fare radio per puro caso e da allora ho fatto radio, e cominciai con 3131, che fu una trasmissione storica della radio italiana, la prima volta che gli ascoltatori entrarono in diretto contatto con quello che era il mondo aureo della trasmissione radiofonica, ma anche televisiva. C'era uno spartiacque nettissimo tra chi ascoltava e chi parlava. Si ascoltava da una parte, dall'altra parte si produceva, si immaginava, si raccontava il mondo, si avevano le voci importanti e si aveva la lettura reale e inequivocabile del mondo. Lo ha detto la radio, significava qualcosa di assoluta certezza. Poi improvvisamente la radio italiana cominciò a metà degli anni 70 ad aprire una linea telefonica attraverso cui gli ascoltatori, come oggi voi fate in estrema leggerezza, entravano nel programma radiofonico. C'era qualche attenzione, devo dire, perché c'era un vivo differito. In realtà la diretta veniva trasmessa un paio di minuti dopo perché si aveva sempre paura che qualcuno dicesse qualche parolaccia, qualche bestemmia o insultasse i grandi democristiani. Quindi c'era una sorta di filtro. Da una parte si andava in onda e dall'altra parte si era pronti a tagliare se qualcuno dicesse qualcosa di non esattamente in linea con quelli che erano le ferre regole della Radio Rai. Perché questa mattina voglio parlarvi di radio? Voglio parlare di radio con voi perché voglio capire qual è la vostra percezione della radio. Voglio parlarvene anche perché inizierà prestissimo, il 28 novembre, e durerà 5 mesi, un esperimento assolutamente nuovo, che è un master in radio. Sarà fatto presso il Sole 24 Ore, organizzato dalla Business School del Sole 24 Ore, il primo master in radio e new media management e content. Significa che sarà fatta una scuola aperta a tutti i giovani laureati per fare radio. Radio nella sua accezione più ampia, più vasta, più estesa. Fare radio non significa soltanto fare quello che faccio io in questo momento, stare davanti a un microfono e parlare a un pubblico. Significa pensare della pubblicità che viene trasmessa alla radio, significa fare delle catene di intrattenimento, di musica e parole da mandare, non so, nei luoghi della grande distribuzione. Significa pensare comunque a una organizzazione di un'azienda che si chiama radio, quindi tutti gli aspetti legati alla gestione, al marketing, al conto economico di questa azienda. Ve ne parlerò tra un istante, spero che voi mi chiamiate e mi diate degli elementi seri per farmi capire esattamente come vi arriva quello che è il frutto del nostro lavoro. Perché mi interessa? Perché anche io sarò tra i docenti di questo master. A tra poco. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. Poi il duce se magnà 30 ringhe affumigate con 4 filoni de pa. Un fiasco de vi. Insomma, il duce partì a una velocità pazzesca, dava delle bracciate da fa paura, zang, zang, zang, zang, zang, zang. Arriva in Calabria, poi ritorna in Sicilia, poi arriva in Calabria, poi ritorna in Sicilia. Insomma, un ferribotto. La folla era impazzita. A 2 chilometri dalla costa, improvvisamente si sono visti i tentacoli della piovra, che si dirigeva tutta birra verso il duce. Tutti urlà. Piovra, governo ladro, l'hanno detto. No, era una piovra proprio. Tutta birra, no, diciamo tutta acqua. Esatto, tutti erano là, il duce spaziale, il duce spaziale, il duce spaziale. Uè, dopo due secondi la piovra ti agguanta il duce. Zhang! Porca uè, noi eravamo tutti bloccati, non si poteva sparare per paura dei colpi di duce. Polipone era questo qua. Esatto, enorme, brutto, con gli occhiacci. Chissà perché non si può fare a meno, parlando di radio, di citare quelli che sono i capisaldi della nostra radiofonia nazionale. Alto Gradimento con Arbore Boncompagni, con una formula di radio che era anche quella completamente rivoluzionaria, alla base della quale sta tutto oggi l'intrattenimento leggero comico, radiotelevisivo. La radio è la matrice poi di quello che si è sviluppato attraverso la televisione. Qualcosa di Crozza, qualcosa di Corrado Guzzanti, qualcosa di tutto quello che noi oggi consideriamo attraverso le facezie dei social media, ancora divertente, ironico, graffiante sulla realtà, nasceva lì. Nasceva perché c'erano dei personaggi illuminati che guardavano oltre il panorama nazionale, andavano a respirare l'aria in altri paesi, poi tornavano e avevano modo e maniera e anche disponibilità da parte di quello che allora era il servizio pubblico di osare, di fare cose che non erano negli schemi, cose che non erano prevedibili, e quindi nasce la radio. Ricordo, visto che me lo stanno già chiedendo qualcuno via SMS, per avere informazioni di questo master Radio New Media Management e Content andate nel sito radiomaster.ilsole24ore.com. poi non lo ripeto, sennò sembra che il mio scopo sia fare promozione, no, sia quello di dire che in realtà per la prima volta chi vuole associare a fare radio un mestiere vero e proprio, c'è un percorso formativo che dura 9 mesi, di cui 5 mesi sono in aula e 4 mesi sono di stage, quindi spero vivamente che qualcuno degli allievi con i quali mi misurerò poi mi seguirà magari per qualche tempo anche nell'avventura di Melog, per vedere veramente quello che accade nel fare radio. Questa è una radio privilegiata, una radio in cui ancora si fa radio come si faceva una volta. Il termine non è un termine passatista, non è un termine legato soltanto alla nostalgia, no. Si riscopre e si rinnova e si applica con le nuove metodologie, i nuovi strumenti della alfabetizzazione digitale, quello che è il vero mestiere della radio. Evocare mondi che non si vedono e si devono improvvisamente allucinare attraverso il racconto. Questa è una radio che fa fiction radiofonica, che è un termine, che è un genere che si usa poco. Pensate che anche quello che noi stiamo facendo con grande sforzo produttivo è qualcosa che non sta facendo nessun altro, o pochi altri lo stanno facendo. Anche soltanto che Dylan Dog, che è un personaggio che evoca tantissimo una generazione intermedia di 35-45 anni oggi, il fatto che l'abbiamo trasformato in qualcosa di radiofonico significa che siamo ancora sul pezzo per considerare la radio qualcosa di totalmente giovane, totalmente attuale. 800 24 00 24, raccontatemi la vostra radio. Emiliano, buongiorno. Emiliano. Nicoletti. Sì, buongiorno, salve a tutti. Allora, io chiamo perché innanzitutto sono un amante della radio, ma oltre che ascolto sempre Radio 24, ma poi io faccio radio da 20 anni nelle radio locali e insegno anche ai ragazzi che vogliono imparare, diciamo, questo pseudo mestiere. Io lo chiamo, ecco, perché lo chiami pseudo mestiere, Emiliano? Ai miei livelli lo chiamo pseudo mestiere perché dico sempre ai ragazzi che comunque bisogna sempre stare un po' coi piedi per terra, perché siamo in un paese dove comunque è difficile per noi fare un mestiere come la radio, se non siamo, diciamo, ai grandi livelli. Però sai perché dico, Emiliano, te lo chiedo perché questa è stata la croce della mia vita. Da quando io ho lasciato, diciamo, mi ero appena laureato, quella che doveva essere l'inizio di un percorso di mestiere dentro l'università per fare radio, ogni volta tornavo nel mio paesello, mio padre mi diceva sempre: adesso, perché hai imparato a mettere due parole in fila, chi ti credi d'essere? Per lui non è mai stato un mestiere, è morto con l'idea che il figlio vendesse fumo, fosse un parolaio, che non lavorasse veramente. Ma tu veramente hai questa impressione? Ma io ti dico, guarda, purtroppo per quanti anni ormai, ma appunto esercito ormai nel mondo delle radio, però purtroppo ai miei livelli è ancora così, perché anche i miei genitori per quanto vedono la passione che io ci metto nella radio, però loro pensano sempre che comunque è qui in Italia un pseudo mestiere, perché sanno che comunque è difficile poterlo fare anche solo per poterci lavorare, e questo in realtà io l'ho sempre creduto fin dal primo giorno che ho messo piede nella mia prima radio locale. Questo vale proprio per qualsiasi mestiere nel campo, diciamo, della comunicazione. Oggi fare il giornalista è difficilissimo, tutti dicono se non ti assume un giornale come fai, ci vogliono le spinte, le raccomandazioni, i giornali licenziano. È verissimo, è vero anche per la televisione. Entrare nel circolo sacro degli autori televisivi, io non ci sono mai riuscito, pensa, in 30 anni che lavoro in questa cosa, non ci sono mai riuscito, eppure diciamo che c'è sempre un mondo molto vivace che si muove, un mondo anche di mestieri, di lavoro, di attenzione che va intorno appunto a questo tipo di attività. Sentiamo adesso Emiliano abbiamo già sentito, sentiamo qualcosa che dia di contributo. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. L'unico investigatore al mondo che si interessi a fenomeni come fantasmi, licantropi, vampiri o zombie. Il fatto che io creda o meno all'autenticità di tali fenomeni è irrilevante. Ciò che conta è che non mi rifiuto a priori di crederci, come fa la gente seria. Per questo qualcuno mi ha definito ciarlatano e imbroglione. E lo è? Ciarlatano e imbroglione? Può darsi. In ogni caso sarà lei a deciderlo. Ora, fuori la storia. Beh, io ho ucciso mio marito, ma è stato per legittima difesa. Questo è un assaggio di radio fatta ad alto livello, non perché la fanno in casa dove lavoro io, ma perché è qualcosa che mi ricorda i vecchi tempi della radio. Quella radio era un mestiere considerato di estremo livello, ancora si respirava fino a tutti gli anni Ottanta negli ambienti della radiofonia Rai questa sorta di senso di aristocrazia, e le persone che lavoravano alla radio erano ancora le prime linee rispetto alla critica teatrale italiana, rispetto alla produzione comunque di pensiero, erano scrittori, erano autori, erano persone che immaginavano il mondo. Questo era Dylan Dog, su Radio 24 è andato in 8 storie, va in onda il sabato alle 15, va anche in podcast. È la capacità di riprodurre attraverso il mezzo radiofonico qualcosa che fa parte dell'antico mestiere di raccontare radio. La radio allora si faceva, la fiction radiofonica, in una stanza attrezzata che era la sala Como, la sala C, apposta per fare la fiction radiofonica, in cui c'erano i sentierini con la ghiaia, le spade per i duelli, i bicchieri per i banchetti, le finestre, le porte, i chiavistelli, c'era tutto quello che ricostruiva comunque il sapore dell'antica radio. Tiziano Bonini, buongiorno. Buongiorno. Tiziano Bonini è un autore radiofonico, è un ricercatore all'Università Ulm di Milano, è un studioso di radio molto più di me, che mi accompagnerà anche lui nel percorso di dare per quanto possibile un contributo per trasformare l'idea di fare radio in un mestiere radiofonico. Sei d'accordo sul fatto che il recupero comunque di una dimensione radiofonica sia qualcosa di estremamente attuale, non sia soltanto ridare vita ai fantasmi del passato? Assolutamente, la radio è più della televisione il mezzo che si, dico una banalità, no? Che si integra con i nuovi media, ma è esattamente così in tutto il mondo. Non sono anche poco d'accordo con questa idea un po', con questa retorica della radio è un mestiere, è uno pseudo mestiere, si fa per passione. La radio è un lavoro come un altro, nel mondo della comunicazione oggi lavorare nei media non sempre porta un salario adeguato, ma questo non significa che non sia un lavoro. Quello che diceva l'amico che lavora in una piccola radio di provincia può essere anche comprensibile. Vediamo di capire per quanto possibile e dare un'idea di come oggi la radio si è estesa rispetto al semplice parlare davanti a un microfono di un'emittente radiofonica. Quali sono, guardando anche varie esperienze in altri paesi, non soltanto in Italia, quali sono le possibilità di espansione di un'attività radiofonica? Chi conosce il mondo della radio, conosce tutto il meccanismo della radio, che non è soltanto parlare a un microfono, ma sapere come tenere in piedi una radio, come sostenere una radio, come creare pubblicità e trovare pubblicità per una radio, può diventare un mestiere vero e proprio. Beh, ecco, se pensiamo ad esempio al direttore di BBC One, Ben Cooper, già 3 anni fa lui per la radio aveva immaginato un futuro che aveva sintetizzato in uno slogan che era quello di ascolta, guarda, condividi. Per lui la radio è questa cosa qua, è ascolta, guarda e condividi. Perché ormai moltissime persone, immagino lo stiano facendo anche molti ascoltatori in questo momento, l'ascoltano non più dall'apparecchio radiofonico, no? ma sempre più da uno smartphone o davanti a uno schermo che sia televisivo del computer via streaming. E c'era uno studio ad esempio di Nokia che ha calcolato che mediamente tocchiamo il nostro telefono 150 volte al giorno. E tra queste 150 volte spesso apriamo anche un'app di una radio o riascoltiamo un podcast. E quindi non bisogna più immaginare, secondo Ben Cooper, ma penso siamo tutti d'accordo nel pensare che la radio non è più soltanto qualcosa che si ascolta, ma è qualcosa che si legge su un tweet o che si guarda in un video, un estratto di una trasmissione in cui c'era una telecamera o di cui si parla attraverso i social media e si rimane in contatto con quella. Molto spesso succede anche che per una settimana magari non ascoltiamo quella radio lì, ma siamo in contatto con lei attraverso, ne leggiamo un post sulla tua pagina Facebook o ne guardiamo un video su YouTube. E per fare questo, cioè, significa che la radio non si deve pensare più come soltanto come un mezzo di comunicazione sonora, ma è un media, tu li chiamavi, mi ricordo, negli anni 90, polimediale, no? Come fa a ricordarti le mie figlie? Perché io studiavo quelle cose, ero giovane all'università e studiavo quelle. Tu pensa, parlavo negli anni 90 in cui ancora non esisteva praticamente internet, già immaginavamo la radio nella sua capacità di adattamento e nella sua inconsistenza, in fondo era soltanto una voce, potevamo mettere ovunque, potesse essere il vero terreno di coltura di quello che poi divenne il social networking. Fare radio a 3131 in realtà era semplicemente oggi gestire i contatti di un social network. Ci fermiamo un istante con Tiziano Bonini, riprendiamo tra poco. 800 24 00 24, continuate a darci segnalazioni, quello che è per voi oggi fare radio e ascoltare radio. Radio 24 verso la Casa Bianca. Chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti? La sfida tra Hillary Clinton e Donald Trump al giudizio del voto. Radio 24 ti racconta l'America che verrà attraverso un lungo viaggio di avvicinamento. Ascolta gli approfondimenti nei programmi, i servizi e gli speciali. Verso la diretta non-stop del voto che ci porterà alla proclamazione del vincitore. Verso la Casa Bianca. Da ascoltare e da leggere su Radio 24 e radio24.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. And then on February 9th, their search stops and a new suspect emerges. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. This is tape from a police interview of the man who finds Hay. He's a little hard to hear on the tape. He's soft-spoken. I'm going to call this man Mr. S. I don't want to use his full name for reasons I promise. Qua si tratta di Serial, che è una emissione radiofonica degli Stati Uniti in podcast. Il podcast, che è una parola che ormai è entrata nell'uso comune, è la trasformazione della radio rispetto ancora a tutti gli altri media che si possono affiancare, di uscire da una scansione obbligata legata alla contemporaneità tra il momento della produzione dell'emissione e il momento dell'ascolto. Il podcast non è semplicemente un serbatoio in cui la radio trasmessa rimane in attesa che qualcuno possa ascoltarla, no, è una nuova modalità di assemblaggio della fruizione e dell'ascolto della radio. La radio, ognuno comincia a costruirsela pian piano ascoltando le cose che sono di suo maggiore interesse al di fuori del tempo di scansione del palinsesto. Questa è una novità che la radio anticipa rispetto poi a tutti gli altri mezzi che produrranno. Tiziano Bonini, ricordo, autore radiofonico, ricercatore dell'Università Ulm di Milano, che anche lui parteciperà al Master Radio e New Media Management e Content, che si terrà appunto presso la sede del Sole 24 Ore a Milano, ma chi dal 28 novembre. Chi vuole informazioni cerchi su radiomaster.ilsole24ore.com. Tiziano, vogliamo parlare un po' anche di questa novità espressiva della radio, che è il podcast, che non è semplicemente riascolta la radio il momento dopo, l'ora dopo, il giorno dopo, è proprio una scelta ben definita. Certo, Serial, che avete fatto ascoltare, rappresenta un po' lo spartiacque, perché tra una prima era del podcasting e una seconda era, è come se fossimo improvvisamente nel 1920 e iniziasse l'era del broadcasting commerciale, quando invece la tecnologia radiofonica esisteva già da almeno 20 anni, no? E il podcast è così, esiste dal 2004, quindi esistono ormai, potremmo già definirlo un old media, perché sono già passati quasi 13 anni dalla sua invenzione. Sì, all'inizio era, diciamo, mettiamo le vecchie puntate, chi vuole se le ascolta, semplicemente questo. Esatto, era semplicemente una possibilità di ascoltare on demand, in differita, cose che erano già andate in onda. Poi in realtà c'è stata negli anni una produzione di contenuti audio da consumare online, pensati per internet, soltanto per internet, che non passavano dalla radio, quindi c'era una serie di producer indipendenti, soprattutto negli Stati Uniti, che hanno tentato però è rimasto un po' in sordina, tant'è che per alcuni anni grandi giornali come il New York Times o il Guardian avevano provato a produrre i loro podcast e poi l'avevano più o meno dismessi, perché il pubblico, non almeno fino al 2010-2011, la cosa non stava funzionando granché. Beh, sai, perché poi, ancora internet viene considerata una modalità frequentata da una certa fetta di popolazione un po' strana, un po' tecnologica, anche un po' folle. Non c'era questa totale corrispondenza oggi tra il mondo dei social media e il mondo reale che vediamo tutti i giorni. Quindi i pubblici ormai si sono abbastanza sovrapposti, non esiste più la differenza. Certo. E poi soprattutto c'è stata un'esplosione, proprio un incremento esponenziale dell'uso di smartphone insieme a una facilità di connessione, una maggiore facilità di connessione a internet in mobilità. È esploso il consumo di internet in mobilità. E questo ha fatto sì che Serial è stato un po' non solo perché era un contenuto meraviglioso, prodotto benissimo da persone che venivano dalla radio pubblica americana, ma anche perché è capitato esattamente in un momento particolare, dove le persone avevano bisogno di contenuto mentre erano in mobilità. E è stato un po' cerchiamo di spiegarlo un po' meglio, perché tutti mi potrebbero obiettare: ma sai, oggi è il mondo della visione, preferiamo vederci un filmato in rete piuttosto che ascoltare la radio. Ma se noi guidiamo, se noi ci muoviamo, ma se noi abbiamo bisogno di approfondimento, e in quel momento siamo non nelle possibilità di stare comodamente seduti davanti a un monitor per vedere un video, un filmato, la radio è lo strumento fondamentale sia di comunicazione che di trasmissione comunque di una realtà che avviene in altri posti. Sì, se pensi che negli Stati Uniti in questo momento il grande futuro della radio si gioca tutto nell'automobile, cosa è possibile fare in automobile? Di certo è sempre più difficile, è sempre stato molto difficile vedere in automobile un contenuto video, mentre l'audio è molto più facile, ed è molto più facile oggi non solo ascoltare la radio, ma ascoltare un po' il podcast che vuoi attraverso il tuo telefono. Sentiamo un attimo Sharon, scusa, se no mi perdo la telefonata. Sharon, buongiorno. Sì, buongiorno. Io mi scusi, ho sentito l'inizio della sua trasmissione, lei mi ha catturato, quindi già questo dovrebbe far capire di quanto sia importante lo strumento della radio, perché all'inizio mi spiegava, quando sentivo che lei raccontava dei suoi primi lavori con l'università, la difficoltà di entrare, la poca considerazione da parte dei genitori, e invece trovo che la radio è un mezzo eccezionale, meno male che c'è, che ci rende uniti chi ha la possibilità di informarci. Ecco, lei ha detto ci rende uniti. Perché secondo lei la radio rende uniti? Non rende uniti anche, sì, non so, gli amici di Facebook non sono altrettanto uniti? Ma sa, la Facebook secondo me, io ho 51 anni, quindi lo uso, ma relativamente. La radio... Nel target delle persone che usano di più praticamente, guardi, non, sì, non è una cosa, sì, da ragazzini. No, però quello che le volevo dire, mio nonno mi raccontava, ascoltava Radio Londra, quindi secondo me la radio è la madre di tutta l'informazione. Voi che ci lavorate sicuramente siete delle persone preparate e veramente, perché lo spiegavo prima alla sua collega, al televisore una coscia, due tacchi e subito... questo è un discorso, guardi, mi creda, lo facevamo già dagli anni Ottanta, già in televisione sulle ballerine richiamano attenzione su cose futili, noi radio siamo nella profondità. Tiziano Bonini, che è di almeno tre generazioni più giovane della mia, quindi io posso anche indulgere in elementi nostalgici, ma io penso che la forza della radio sia anche la sua epica. L'epica della radio la tiene vivace anche quando oggi la radio è qualcosa di... intangibile, non esiste più, della radio è soltanto un concetto. Chiamiamo radio qualcosa che non è più la radio né di Radio Londra né del 3131 né di Arbore, è un'altra cosa. Quanto ha ancora valore muoversi in qualcosa che ha una storia così profonda, così sedimentata e allo stesso tempo è così avanti rispetto a tutti i media? Ha valore perché questo discorso sulla vecchiaia della radio, allora la vecchiaia della parola scritta, dei romanzi, in realtà sono i linguaggi non muoiono mai, magari il giornalismo, i giornali saranno in crisi, ma il giornalismo non morirà mai, no? Quindi la radio di per sé ha di fronte un come linguaggio, come dicevi te, come quella cosa intangibile che entra che è fatta di relazioni, di voci e di interazioni fra persone, mediate dalla radio, una cosa che non è qui per finire, anzi. Ma cerchiamo di capire però, Tiziano, oggi, al di là della radio, dire io voglio lavorare in radio, così, quindi devo trovare una radio che mi chiami a lavorare, però devo saper fare qualcosa. La gente pensa che la prima cosa da fare, da imparare, sia, non so, fare lezioni di dizione, cosa nella mia vita non ho mai fatto, non mi sono mai posto il problema. Ma oggi la radio diciamo, è un comparto che deve avere comunque delle caratteristiche anche di sapersi mantenere e camminare con le proprie gambe, sapersi creare intorno una rete che appunto di sostegno, crearsi intorno un pubblico che l'individuo abbia un riferimento. Ecco, quali sono la multidisciplinarità che è necessario acquisire per dire io sono completo come persona che lavora in una radio, non necessariamente solo come autore radiofonico? Sicuramente c'è tutto intorno all'autore e alla produzione, c'è tutta una serie di competenze che sono legate al marketing e alla comunicazione, alla costruzione di un audience intorno ai contenuti, quindi non per forza bisogna essere degli autori, ma anche pensando agli autori, oggi prendo il caso degli Stati Uniti perché sono sempre un pochino più avanti dell'Europa riguardo agli sviluppi della radio, si sono formati, sono nati una serie di network di podcasting indipendenti che stanno in qualche modo facendo competizione alla radio tradizionale, non sono altro che gruppi di producer, di autori, quindi in questi autori sono scrittori, conduttori, tecnici del suono, gente esperta di social media, che gestisce soltanto i social media, quindi più figure. Ma anche grosse firme del giornalismo che molte volte decidono di uscire dai loro giornali, loro testate, esatto, per dire voglio finalmente dire qualcosa di cui non devo rendere conto a nessun editore. Quindi quello che stai producendo non è più semplicemente una serie radiofonica, ma è un contenuto audio per dei device digitali. E questo cambia completamente il tipo di competenze, perché da una parte ci sono sì le competenze della costruire, fare un contenuto audio che sono simili a quelle necessarie per fare un contenuto radiofonico, non una serie radiofonica. E sono sempre le stesse, quelle non cambieranno mai, ma attorno a quelle c'è il bisogno di sviluppare la capacità di costruire l'audience, gestirla attraverso i social media, di trovare altre forme pubblicitarie che non siano quelle tradizionali del centro media che gestisce. Ci fa capire Tiziano Bonini quello che è il vero spirito oggi di crearsi una professione legata alla radio, conoscere esattamente la complessità del mondo che si espande anche attraverso la dimensione digitale, capire quali sono i canali più efficaci nei quali poi collocarsi col proprio lavoro radiofonico. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, oggi parliamo di noi, parliamo di radio perché stiamo cercando di definire assieme al nostro pubblico come la radio sia qualcosa di molto più complesso, di molto più articolato e di sorprendente rispetto alla semplice rappresentazione di una radio, che oggi la rappresentiamo sempre con un'iconografia del passato, una radio di celluloide, una radio ancora, ancora fatta con davanti lo stemma dell'Eyar o un microfonone di quelli antichi dei film anni 20. No, la radio è qualcos'altro, uscita comunque dalla gabbia di una definizione, diventa una cosa molto complessa, che ha a che fare con il mondo del lavoro, col mondo della comunicazione, con il mondo della pubblicità, con il mondo appunto della capacità di creare degli strumenti di analisi approfondita e accreditata della realtà, che sfuggono a volte anche a quelle che possono essere delle gabbie date dalla necessità di dover lavorare con un editore, comunque ti dà dei paletti, ti pone delle barriere. Luigi, buongiorno. Salve Nicoletti, chiamo da Cagliari. Io, la mia piccola esperienza da radioascoltatore risale dagli anni 70 fino a oggi. È una cosa veramente, devo ammetterla, e sinceramente è cambiato completamente tutto il sistema di ascolto che io ho della radio. Usufruisco dei programmi di Radio 24, per fare l'esempio di Radio 24, del podcast, che è veramente una genialata, nel senso che mi ritrovo, per esempio, per fare un esempio, dentro Radio 24, Enrico Pagliarini alle 22:30. Ora anche una nuova applicazione che è ancora più bello e più facile. Esattamente. Per farti un esempio di Enrico Pagliarini, che io stimo molto, io alle 22:30 mi sto mangiando una pizza, lì domani mattina mi ascolto Enrico Pagliarini. La praticità, per farti un esempio, di usufruire di questo veramente rivoluzionario sistema. Tutto qui. Era una mia piccola esperienza. No, l'ha detto una cosa molto importante. Riprendo il filo con Tiziano Bonini. Ecco, io ricordo che quando ci davano lezioni di radio, ancora negli anni 80, fine anni 80, l'idea che ognuno di noi doveva essere associato a una parte dell'orario. Il 3131 finiva proprio a mezzogiorno e 10, era il momento in cui magari tornavano i figli a scuola, buttavano la pasta, una visione molto arcaica. Ogni conduttore doveva essere legato comunque a un momento della giornata, si facevano le selezioni. Questa è una voce buona per il mattino, darà il buongiorno, quest'altra è buono per accompagnare nei programmi della notte, sempre su programmi legati alle sfighe, alle disgrazie, alle storie lacrimose e via dicendo. Oggi anche un produttore di radio, un editore di radio, che radio può essere anche una piccola radio che va soltanto attraverso il podcast o attraverso lo streaming, non è detto debba avere una struttura pesante, non deve più porsi questi problemi, visto che l'ascoltatore che adatta le sue esigenze individuali, i toni, le voci, i sottintesi, le emissioni, le capacità di analisi della realtà. Ti ho perso per un secondo, scusami. Volevo dire il cambio totale, che non c'è più il conduttore adatto per quell'ora, che va a quell'ora perché ha delle caratteristiche di voce, di sensibilità, di approccio alla realtà adatte per quell'ora. Ci ha detto un ascoltatore che ha chiamato dalla Sardegna dicendo che lui è cambiata completamente, è un'altra cosa. La radio, quando non è più legato soltanto al palinsesto, ma se l'ascolta quando decide lui, è un'altra cosa. Si sente Pagliarini la mattina, che invece è un programma che magari va il pomeriggio. Per lui quella è il Pagliarini migliore, è quello che sente la mattina. Questo ha a che fare con l'orologio sociale, che è completamente non del tutto, ma insomma molto sbandato, comunque frammentato, no? È uno dei problemi dei media in generale oggi, la frammentazione dell'audience. Non andiamo tutti più in massa alle 8 al lavoro, non usciamo più tutti in massa alle 5, accade sempre più, e sempre più i pubblici sono parcellizzati, frammentati, atomizzati. e ognuno di questi pubblici poi ha delle abitudini che cambiano continuamente, perché non hai più un lavoro fisso nell'arco del tempo, e puoi stare per 3 mesi senza lavoro e cambiare abitudini e cambiare quindi palinsesto, un modo di ascoltare la radio, e però sei legato ad alcuni contenuti e li vuoi seguire quando vuoi te, ma questo ha a che fare con... Quindi la capacità di oggi di chi produce radio è anche una approfondita capacità di analizzare, conoscere, valutare, ponderare, e la mutazione veloce dei tessuti sociali. Bisogna conoscere il mondo e conoscere la società significa avere delle chiavi importanti anche professionali. Certo, e soprattutto bisogna umilmente da radiofonici cominciare a pensare che non facciamo più soltanto broadcasting e non ci rivolgiamo più a delle masse in contemporanea, ma sempre più cominci a produrre e a trasmettere, a parlare per persone che ti ascolteranno forse fra 3 mesi o forse domattina o stanotte, persone che non sono contemporaneamente con noi e che siamo in tutto questo, siamo in competizione con non soltanto con altre radio, ma con dei producer indipendenti, con gente che produce contenuti solo per internet. È molto più complicato il panorama, molto più frammentata l'audience, perché è molto più complessa la società al di là dei contenuti che produciamo. Quindi concludo con Tiziano Bonini, che saluto, in conclusione con gli ascoltatori che ci hanno finora seguito. Abbiamo cercato di darvi soltanto una prima idea di quello che sarà la complessità di un master dedicato alla radio. È la prima volta che ci si dedica con tanta attenzione a tutti gli aspetti legati alla radiofonia, in senso lato, in senso vago, in senso concreto, reale, di mercato, ma anche in senso poetico. Chi volesse altre informazioni, già ho dato il sito radiomaster.ilsole24ore.com, e poi ci sentiremo sia in aula che davanti a questo microfono.